2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 settembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024, e vi ricordo come sempre anche il servizio podcast. Vi invito ad abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Vi annuncio anche che dal 6 di settembre tutte le nostre puntate sono archiviate in formato MP3, quindi anche nel nostro archivio abbiamo abbandonato il Real Audio, con il quale rimangono tutte le vecchie puntate precedenti al 6 settembre, ma appunto da quella data tutte le nuove puntate saranno archiviate, sono archiviate in formato MP3. Di che cosa ci occuperemo in questa puntata? Oggi parleremo di un prodotto appena lanciato, un prodotto barra servizio, potrei dire, che mette insieme, che unisce la tecnologia GPS a quella della telefonia mobile. Il prodotto si chiama UbiSafe, probabilmente gli americani lo chiameranno UbiSafe, ma si tratta di un prodotto italiano, ne parleremo più tardi. Parleremo anche della Blogfest che si è tenuta la scorsa settimana a Riva del Garda. Ed ora invece parliamo di un tema che vi ho anticipato anche nelle recenti puntate di 2024, ovvero quello dell'importanza dei dati. Quello della raccolta dei dati su internet è sicuramente uno dei grandi business dell'era del web. Ne parliamo con Massimo Fubini, che è amministratore delegato di Contact Lab. Massimo, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Tu ti occupi spesso anche di raccolta di dati, perché una parte del tuo business ha a che fare con i dati di clienti, di navigatori della rete, quindi mi confermi che questo è uno dei grandi business dell'era del web? Assolutamente sì, in realtà il business non è tanto quello della raccolta dei dati, ma dell'utilizzo che poi si fa di questo tipo di dati, quindi la capacità di distinguere quelli che sono i dati buoni da quelli che sono i dati non buoni ma poco utili, e come questi dati poi alla fine vengono effettivamente utilizzati. Questo è sicuramente un business molto importante. Quando parliamo di dati su internet, a che tipo di, non solo numeri, ma di elementi stiamo facendo riferimento? Tendenzialmente sono dati che vengono definiti dati di profilazione. Profilazione ovvero la possibilità di capire attraverso dei comportamenti che l'utente ha in rete quello che è un suo profilo di consumatore, un suo profilo di persona. Quindi il fatto di navigare durante determinate ore piuttosto che in altre, da una postazione geografica piuttosto che da un'altra, andando a vedere certi siti piuttosto che altri, è come dire l'ombra che noi trasmettiamo e quindi un'immagine di noi stessi, più o meno definita. Questo è un tema di cui si sta discutendo da molto tempo, ogni tanto se ne discute con maggiore enfasi, con maggiore frequenza. In questo periodo, in queste settimane, se ne sta ridiscutendo perché Google, che spesso viene accusato di raccolta troppo esagerata di dati, ha lanciato recentemente, l'abbiamo detto anche 2024, un browser, quindi un programma di navigazione su internet che si chiama Chrome. Esistono sul mercato oggi, molti dei nostri ascoltatori sapranno, tanti programmi di navigazione. Il principale è Internet Explorer della Microsoft, esiste un fortissimo concorrente che è Firefox, poi la Apple ha il suo navigatore e oggi c'è anche Chrome. Allora, prima domanda, perché c'è così tanto interesse nel produrre programmi che sono gratuiti? Allora, l'interesse può essere visto da due punti di vista. Da un certo punto di vista il browser è il gateway, quindi la porta attraverso la quale uno si affaccia su internet, quindi è il punto nel quale un osservatore può vedere tutto quello che si fa in rete attraverso il browser stesso. In secondo luogo, il browser è un qualche cosa che si installa sul computer, quindi non è un servizio che si fruisce via web, ma anzi è proprio lo strumento attraverso il quale si fruisce il web, e di conseguenza è, come dire, un portatore di tutta una serie di altri dati e possibilità che vengono date all'utente in termini di servizi che poi si possono effettivamente fruire attraverso questo browser. Ad esempio, attraverso il browser si possono fruire dei filmati, attraverso il browser in futuro magari si potranno fare delle telefonate. Adesso ci vogliono dei programmi appositi, ma nulla vieta che un domani questi programmi appositi siano delle funzionalità del browser stesso. Attraverso il browser, soprattutto determinati browser, si può tranquillamente fruire della posta elettronica, quindi è un programma molto molto importante sul quale le persone passano tantissimo tempo durante il giorno e ne passano sempre più considerando il fatto che su web ci sono tantissimi servizi che ormai sono diventati web based. Gli stessi Microsoft Word o Excel ormai esistono in diversi formati anche fruibili direttamente attraverso il web senza installare nulla, quindi da qui si capisce quella che è l'importanza di uno strumento di navigazione che, tra le altre cose non banali, lo stesso tipo di browser ormai viene installato sui dispositivi mobili, quindi sui cellulari, il che significa poter avere un audience che non è solo quella degli utenti connessi alla rete, ma un audience anche degli utenti che hanno un cellulare che è un qualche cosa che aumenta a dismisura la quantità di persone tecnicamente sotto controllo, volendo. Avete sentito, lo scenario è chiaro, ma molto complesso, molto variegato. Le cose, come diciamo, a volte 2024 stanno diventando sempre più complesse e la capacità di capire come ci si sta muovendo è un fattore competitivo molto importante. Massimo, oggi non vogliamo, anche perché in rete esistono pagine sulle funzionalità buone o cattive di Chrome, come tutti i programmi ci sono delle cose belle, positive, delle novità interessanti e altre meno interessanti. Che cosa distingue Chrome dagli altri programmi di navigazione? Fondamentalmente è un programma di navigazione come gli altri, poi insomma ci sono alcune caratteristiche diverse, ma qual è la vera cosa che lo distingue? Uno degli elementi che sicuramente lo distingue è, tra virgolette, il proprietario di Chrome. Prodotto da Google. Esattamente. È il proprietario e la tipologia di licenza che anche c'è dietro. È un programma che sì, è effettivamente gratuito, è un programma open source, quindi chiunque può guardare all'interno del codice che cosa fa, che cosa non fa, e nella stessa maniera altrettanto chiara c'è un normale scambio, quindi loro ti danno un programma gratuitamente, interessante, eccetera, eccetera, e si prendono una parte dei dati. Questo è il punto, a mio avviso, chiave. Già in passato tante volte si è puntato il dito verso, come dire, il cattivo della rete, che un tempo si poteva definire, o almeno era definito da qualcuno, i Microsoft. In realtà, dal mio punto di vista, la quantità di dati che in questo momento Google ha a disposizione su ciascuno di noi è un qualche cosa che a me obiettivamente fa abbastanza paura. Certo, poi sappiamo che anche l'Unione Europea più volte si è espressa su questo punto, ultimamente anche Google ha dato una sorta di risposta dimezzando il tempo di archiviazione dei dati di navigazione. Fatto sta che esiste e se la rete evolverà, come stiamo vedendo, esiste e esisterà anche in futuro un'azienda che ha a disposizione una enorme quantità di dati di navigazione. Poi cerchiamo anche di capire che cosa si riesce a capire da questi dati di navigazione. Fino a poco tempo fa Google disponeva di pochi strumenti, all'inizio solo di uno strumento per trovare dati, cioè solo del motore di ricerca. Poi come si è evoluta la situazione? E qui fondamentalmente sta la chiave della questione. La questione è molto semplice, è che noi abbiamo un osservatore, che è Google, che ci osserva non perché sia intrinsecamente cattivo o altro, ma anzi, paradossalmente ci osserva perché così può servirci meglio. Quindi è un osservatore che sicuramente può essere percepito come buono, perché ci dà nell'esecuzione dei suoi lavori dei risultati che sono effettivamente più pertinenti, ci fa perdere meno tempo e così via. Però questi servizi che sono nati dal motore di ricerca si sono man mano evoluti, e quindi i punti da cui noi veniamo osservati sono molteplici. Quindi partiamo dal motore, ed è un dato di fatto che la stragrande maggioranza delle persone, nel momento in cui naviga, passa da un motore di ricerca, ed è un dato di fatto che questo motore di ricerca è Google. Sì, quindi molta parte della navigazione, quando andiamo su una pagina, molto spesso arriviamo a quella pagina perché l'abbiamo cercata su un motore di ricerca, e spesso il motore di ricerca è Google. Esattamente. Google però a questo punto sa che noi abbiamo cliccato su un determinato link, quindi abbiamo cercato un certo tipo di termine, abbiamo cliccato su un certo link, però poi non sa che cosa avviene successivamente. In realtà poi Google, nell'arco della sua crescita, ha acquistato una società che si chiamava Urchin, che faceva un prodotto di web analytics. La web analytics sono, come dire, le tecnologie che permettono di effettuare delle statistiche di navigazione sui siti, quindi che pagine ho visto, quanto tempo mi sono fermato su una pagina piuttosto che su un'altra. Questo prodotto, che era un prodotto a pagamento molto valido, ha iniziato a distribuirlo gratuitamente e ha avuto un forte successo, perché la qualità di questo servizio è molto buona. Però a questo punto Google inizia ad avere in casa non solo tutti i dati di che cosa ho cliccato io, che cosa hanno cliccato le altre persone sul motore, quindi che cosa sono andate a vedere, ma se alcuni di questi siti utilizzano Google Analytics, o si chiamava un tempo Urchin, per analizzare il proprio traffico, loro iniziano ad avere tutto il traffico che avviene su questo sito, e quindi iniziano a dire: bene, ha cliccato qui, ma sanno anche se mi sono fermato, se sono andato via, se ho visto due pagine, se ne ho viste 25 e così via. Quindi in cambio della gratuità di questo servizio, Google osserva i dati. Esatto, e qui non voglio entrare in un problema di conflitto di interessi che poi magari apriremo, riguardo al fatto che Google analizza i dati e molto spesso poi vende anche la pubblicità alle stesse persone, però questo magari è una cosa di cui discuteremo in un'altra puntata. Poi ha aggiunto un ulteriore tassello oltre a Google Analytics, ha dato un servizio sempre gratuito che si chiama Gmail, e quindi molte persone iniziano a dare a Google in mano anche la gestione della propria posta elettronica. Io ho una casella di posta elettronica Gmail, non so se tu ce l'hai. Ce ne ho una anch'io, ecco. una delle tante. E poi ha aggiunto un altro tassello anche a questo tipo di elemento, e ha comprato una società che si chiama DoubleClick, che eroga pubblicità in tanti siti differenti. Quindi nel momento in cui voi andate su un sito, che magari ci siete arrivati senza passare da Google perché avete digitato l'indirizzo, magari questa società non usa Google Analytics per analizzare i propri dati, ma magari questa società vende pubblicità, e coloro che erogano questa pubblicità è DoubleClick. In questo caso state lasciando degli altri dati a Google stessa. Poi ci saranno, immagino, altri tasselli, ma di questo parliamo tra poco. Questo è 2024 su Radio 24. Ci fermiamo per un minuto. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi aspettiamo tra poco.